Pixel Rapman, Pixel Acuto qua sotterranei. Ridicolo, tu sei ridicolo. Se Pixel Rap lo vedi ovunque il mondo sembra così piccolo. Tu tipo uccello piccolo, ti derubo tipo zingaro. Per la tua tipo quattro mani tipo Kintaro. E questo mondo che non cambia, it's ridiculous. E non mi guardo la TV, why? It's ridiculous. Sai com'è Pixel Rap come Macho Capatonda. Vedo la gente scema, non c'è bisogno che risponda. Va così, se va così, se fai così non fa così. C'è Pixel qui, c'è Acuto lì che se la ride tutto lì. Ridicoli qua, ridicoli là. Ne ho visto troppi, cazzo, menta, fammi gli occhi. Ridicoli, la chiesa, la tele, gli sbirri e tutti i tuoi amici scemi che cantano tutta gli sbirri. Mi tatuo le facce degli infami sotto i piedi, così li schiaccio ogni volta che cammino, non credi? Vesti da fighetto man, ma sei ridicolo. Ti trassi per essere figa, ma sei ridicola. Ti fai riempire tutti i buchi, ma sei ridicola. Ti vanti di tutti i tuoi amici, ma sei ridicolo. Il mondo dove vivo è troppo ridicolo. Il papa con le scarpe Prada, sono ridicolo. Più mi guardo intorno e più mi sento ridicolo. Posso dire soltanto una cosa, ridicolo, ridicolo. Ma accorgo che sto mondo è piccolo. Dico qualcosa a te, poi sento altri che la ridicolo. Esplicito. Quando prendo carta e penna, mi sento preso bene pure senza l'antenna. Non c'è nessuno al mondo più ridicolo del papa. Lo Stato chiede l'otto per mille, lui c'ha le scarpe Prada. Mi chiedo in che mondo mi trovo, non lo so neanch'io. Lo chiedo a te, lo chiedo a lui, provo a chiederlo a Dio. Più mi guardo intorno e più mi sento ridicolo. Più ti guardo in faccia e più ti vedo ridicolo. Ormai lo so che sono arrivato ad un punto critico. Rimango in bilico, non mi regge più il fisico. Accendo la TV e mi becco il telegiornale. Parla di un funerale che a gennaio la gente è già al mare. Il nuovo attore spettacolare più mitico. Mi basta una parola per dire tutto ridicolo. Ti vesti da fighetto man, ma sei ridicolo. Ti trassi per essere figa, ma sei ridicola. Ti fai riempire tutti i buchi, ma sei ridicola. Ti vanti di tutti i tuoi amici, ma sei ridicolo. Il mondo dove vivo è troppo ridicolo. Il papa con le scarpe Prada, sono ridicolo. Più mi guardo intorno e più mi sento ridicolo. Posso dire soltanto una cosa, ridicolo. Pixel Rap e Pixel Acuto, sotterranei, e parte Blanca Re.